Capitolo 12 di Mattinate Napoletane. Questa registrazione LibriVox appartiene al dominio pubblico. Registrato da Davide Liquile. Mattinate Napoletane di Salvatore Di Giacomo. Capitolo 12. Suor Carmelina. Giugno 1886. Tra le suore dell'ospedale X ho conosciuto, tempo fa, Suor Carmelina, una giovane donna sottile e bianca, bianca come una vergine di cera, pallida come un'ossea nell'ombra. I malati la chiamano la Santarella. Ella sorrideva sempre, parlava sempre sottovoce, pronunciava S la Z e tratto tratto diceva a malati benedetto, benedetto da Dio. Era veneziana, tutta piena di quella dolcezza dei modi e dell'anima onde quei del Veneto son pieni. Com'era divenuta monaca? Nessuno me lo seppe dire. E da quanto tempo ella aveva abbandonato il mondo e Venezia bella? Tutte queste monacelle benedette hanno il loro piccolo dramma chiuso in cuore e un mistero nascosto nell'anima. Alcune volte gli occhi luccicano, si velano d'una lacrima, le mani bianche fremono, la bocca freme, il respiro ansioso gonfia il petto coperto dalla tonacella. Ma andate a chiedere loro perché. Tentate di impadronirvi di quella bianca mano fremente. Cercate di interrogare quella lacrima. Fuggono. Si chiudono nelle piccole stanzucce a vetri. Evitano di ricomparirvi innanti, vergognose. Soltanto la piccola stanzuccia a vetri sa il mistero della piccola suora. Nessuno ha potuto mai sentire i singhiozzi di una piccola suora. Io chiedevo sempre a un mio povero amico malato a quell'ospedale che ne pensasse di Suor Carmelina. Si capisce, ogni giovanotto è in presenza di una di queste figliole della carità. Prima vede la giovane donna, poi vede la monaca. Immagina sempre un sacrificio, si appassiona e si intenerisce. L'amico, un commesso viaggiatore al quale una caduta aveva quasi spezzata la gamba sinistra, stando in bolletta s'era salvato all'ospedale. Veneto pur lui, e aveva ben presto stretto amicizia con Suor Carmelina. La trovava semplicemente una buona putela, una fia della Madonna. Io lo andavo a vedere 3 volte alla settimana. Poi finii per recarmi a trovarlo quasi tutti i giorni. Si cominciava a parlare della gamba disgraziata e si cascava subito dopo a chiacchierare di Suor Carmelina. Non le ha mai domandato perché si è fatta suora? Mai. E perché? Non me l'avrebbe detto. Parla poco. Ma con te, che sei compaesano suo, potrebbe fare eccezione alla regola. La regola, rispose il mio amico, celiando. Impone il silenzio alle suore, specie coi giovanotti malati, specie alle suore giovani. Senti, caro mio, francamente io vorrei trovarmi qui, in questo tuo letto. Con gli stessi dolori. Con gli stessi dolori. Con la stessa gamba impacchettata, con la stessa mania di volere e di non poter uscire a vedere il sole, a veder camminare la gente per la via, a vedere le carrozze a camminare. Va là, tu scherzi. Siamo troppi amici. Nemmeno i cani lo auguro. E io vorrei essere qui nel tuo letto. Per vedere Suor Carmelina. Per parlare con Suor Carmelina. Per sentire la voce di Suor Carmelina. Per questo. Lui rise fortemente. Ella in quel momento passava e si volse. Le donne hanno questo di particolare, che anche da lontano, con la coda dell'occhio, appurano quello che dite e se parlate di loro. Per un momento la sua veste passò lungo la fila dei letti, senza rumore, senza toccarli, lambendo i larghi quadroni di marmo del pavimento. Un malato, numero 34, un vecchio colono da Melito, si levò a sedere sul letto e si sberrettò con una grande reverenza, mormorando qualcosa. La suora gli rispose con un piccolo moto del capo. Forse gli sorrise, ma le tese larghe della cornetta ci impedirono di vedere. A un posto della sala si chinò, raccolse la buccia di un'arancia e per l'aperto finestrone la buttò giù nel cortile. Poi sparve. Sei contento? Disse l'amico. Or l'hai vista? Sei contento? E tu? Non ti commuovi? Io? Ciao, vecio, ne ho viste tante in mia vita. Io mi secco assai di dovermene stare qui inchiodato in questo letto, tra lamenti, spasmi, morti subitanee e morti lentissime, che non arrivano mai. sono impregnato di acido fenico. Senti, vecchio mio, mi disse in un altro giorno, fra poco me ne vado. Ieri il dottore mi ha detto che ne avevo per un'altra settimana. M'ha rifatta la gamba a nuovo. Che uomo, benedetto. Che grande istituzione della chirurgia. E dice addio alla suora. Accidenti, sei un bel seccatore tu, con la tua sur Carmelina. Guarda, ieri ella mi ha, come si dice, intenerito. M'ha fatto stomacare. E come tutte le altre. Sempre le stesse. Senti, io le ho annunziato che me ne andavo presto, fra una settimana, e che ero bello guarito. E lei? Lei al solito si è fatta rossa. Mi ha detto davvero. È proprio guarito. Dico io, sicuro. Cosa c'è? Le dispiace? Ha fatto un muso? Dice, ecco, noi altre ci affezioniamo ai nostri malati così da vorreceli tenere assai tempo con noi. Ogni malato guarito si porta un po' del nostro dispiacere. Immagina, ne volevo tirare un cuscino. Sei un gran cretino, ah, come tutti i commessi viaggiatori. Aspetta che guarisca, vecchio mio. Dopo una settimana egli era in piedi, ma ancora zoppicava un poco. Per 3 o 4 altri giorni era necessario che rimanesse all'ospedale. Piglio aria, mi fece. Piglio da capo l'abito del camminare. Vieni qua, io ho qualcosa da narrarti su quella tale persona. Ci mettemmo a sedere sotto un finestrone onde una gran luce pioveva nella sala. Erano le 9 della mattina e l'ospedale faceva la sua toletta. Pieno d'un gran chiacchierio che si intrecciava fra i letti, arrivava con gli inservienti, usciva dalla stanza delle suore per l'uscio socchiuso. Una vecchia suora, inforcati gli occhiali, scriveva in un gran libro squadernato le innanti sulla tavola. Ieri, cominciò il mio amico, al dopo pranzo suor Carmelina m'ha fatto presente d'una manata di confetti. Abbiamo chiacchierato a lungo. L'ospedale s'era messo a dormire. Dove se ne va? Ora che è guarito, me ne vado a Venezia, le ho risposto. Vado a rivedere mio papà e la mamma. Beato lei, che c'è a tutti e due. E lei? Ha chiuso gli occhi. Ha scosso tristemente il capo. Non ho nessuno. E come nessuno? Fratelli, sorelle? Nessuno. Ti dico, caro mio, soggiunse il mio amico, sono stato preso da una gran pietà. Non ho saputo nulla rispondere, nulla dire a confortarla. Tutto ieri ella è rimasta in sala. A sera, per le finestre, entra un gran profumo di zagare dal giardino. Ieri sera se ne moriva, una cosa deliziosa, inebriante. Suor Carmelina passeggiava in lungo e in largo. Spuntava la luna, laggiù, dietro il comignolo della fabbrica di Steari. Guarda, io mi son messo a canticchiare. Da Venezia allontandomi la mia non passa, di che non me vegna a mente il dolce nome della patria mia, al linguaggio e ai costumi della gente. E continuavo. Sotto il ponte del Rialto fermaremo la barchetta. O Venezia benedetta, non te voglio più lassar. Avessi veduto com'ella rallentava il passo per sentire. A un tratto, eccotela che mi s'accosta al letto, con le lacrime agli occhi, con la faccia bianca bianca, stravolta, la bocca tremante. Lei non canti, m'ha detto con malo modo. Qui non si canta, la prego di smettere. Questo è un ospedale. Ciò. Brava la ragazza, e cantavo roba del suo paese, cantavo. Ecco, ma appena la suora appariva in fondo alla sala, un grido infantile risuonò, un grido che si fece trasalire. Saliva un gran vocio dal cortile, e gli inservienti s'urtavano, accorrendo. Suor Carmelina scomparve. Che sarà? Qualche resezione di ginocchio, qualche incisione alla spalla, una disarticolazione, un bottone di fuoco che arrostisce la carne. Ecco. Oramai 30 giorni di ospedale mi hanno abituato a tutta questa roba. Ne ho sentiti d'urli. Un inferno, caro mio. Ciò che succede ora? Qualche cosa di strano succedeva. Infatti, l'ospedale era sossopra. La segreteria, attigua allo stanzone in cui noi ci trovavamo, s'empiva di gente. I malati si rizzavano a sedere sui letti. Andiamo a vedere, disse il commesso viaggiatore incamminandosi, zoppicante. Era successo questo. Il figliuolo del giardiniere, un bel ragazzetto biondo, era stato morso dal cane del guardiano. Il cane era idrofobo, palesava tutti i segni del male e lì per lì fu ammazzato. Ma il ragazzetto era perduto. Tutto questo lo sapemmo e lo vedemmo in un momento. Un brivido ci corse per l'ossa e il coraggio di avvicinarci all'infelice ci mancò. Ma la gente si stringeva più intorno a Suor Carmelina che da presso il ragazzetto. L'interno di guardia, un rosso dai piccoli occhi neri scintillanti, ci venne incontro, stropicciandosi le mani, sgridandoci. «Avete visto? Avete visto?» E soggiunse entusiasmato, «Bellissimo, stupendo! Suor Carmelina ha succiato il veleno!» La piccola suora era diventata grande. Era corsa al grido del piccino. Lo aveva trovato piangente. Gli aveva chiesto che fosse successo. Il piccione rispose «Mi ha morso il cane!» Subito dopo si sentì gridare «Badate, badate! Il cane idrofobo!» Il giardiniere gli aveva spaccato il cranio con un colpo di bastone. Ma il povero ragazzo mostrava il braccio nudo, sanguinante, e nessuno sapeva trovare modo di soccorrerlo. Allora Suor Carmelina s'avanzò, palidissima, ma senza il più piccolo tremito. Accostò alla ferita le labbra e succhiò, rigettando il sangue e il veleno, forbendosi le labbra bianche col gran moccichino scuro a quadroni. E allora tutta la sala numero 4 proruppe in un applauso. Il colono di Melito agitava il berrettino. «Dove sei ora, piccola monaca bianca? Carmela, mistica anemica, figlia della laguna, dove sei? All'ospedale degli incurabili una volta. Un mio amico chirurgo operò sopra una contadinella. Nel candido seno entrò la lama tagliente del bisturi. La contadinella dormiva, cloroformizzata. Per parecchio tempo ho chiesto al chirurgo mio amico notizie di lei. Era stata una terribile operazione, ma la contadinella guarì. Dopo un mese uscì dall'ospedale e il dottore venne a trovarmi al caffè per annunziarmelo. Un vero miracolo. Ma di Suor Carmelina io non ho mai osato dimandare. Non so perché. Se ella...» Fine del capitolo 12, registrato da Davide Lequilo.